Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 15 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E qui con voi oggi ci sono sempre io, Caterina Bombarda, con Antonella Cortesa, la conduzione di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buon fine settimana a tutti. Sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, oggi le nostre notizie sempre tra carcere e città riguardano in realtà oggi notizie internazionali. Siamo in Africa, le carceri sono vulcani pronti a esplodere, lo leggo da La Repubblica a firma di Antonella Sinopoli. Perché ovviamente le prigioni di molti paesi africani durante la pandemia sono diventate vere e proprie bombe a orologeria. Si racconta di sovraffollamenti, contagi, uccisioni durante le rivolte e in questo periodo di quarantena ci sono luoghi in cui l'isolamento è ancora più duro e sto parlando proprio delle carceri. E infatti in un periodo così ci vorrebbero i miracoli in realtà, ma che dati abbiamo nelle prigioni africane? Ma allora, le notizie che filtrano dalle carceri africane, grazie ad attivisti, ONG, ma anche alla stampa locale e ai prigionieri che riescono a comunicare con l'esterno, sono chiaramente drammatiche e parlano di incuria, di violenze, di gironi infernali, dove da qualche mese si aggira un altro invisibile e terrorizzante spettro, che è quello del Covid, per l'appunto. Tutto questo diventa un mix esplosivo che fa scattare la rabbia, lo abbiamo visto in Sierra Leone, l'ultima ribellione si è verificata qualche settimana fa nella prigione maschile di Pademba Road a Freetown, che è la capitale, dove sono rimaste uccise 7 persone, tra cui 5 detenuti e 2 guardie. E la struttura ospita molti prigionieri politici, inclusi ex membri del governo, e dopo la conferma di alcuni casi sono state create aree di isolamento e firmata un'ordinanza che sospende tutti i processi pendenti. E questo significa per molti prigionieri carcere a tempo indefinito. Ma una delle situazioni più gravi nel paese è in Marocco. Almeno 300 sono stati i casi rilevati a seguito di un programma di test e ne sono stati fatti 1700 a prigionieri e secondini. Ai primi di aprile sono stati rilasciati oltre 5000 detenuti, ma dietro le sbarre delle prigioni marocchine, pensate, sono almeno 80.000 le persone detenute. Drammatica è anche la situazione nella Repubblica Democratica del Congo, che ha una media del sovraffollamento spaventosa, quasi 432% secondo MONUSCO, che è la forza di pace delle Nazioni Unite in Africa. Ma la situazione più tragica si registra nella prigione militare di Ndolo, al cui interno sono registrati 56 casi. E in Zimbabwe sono 1500 prigionieri rimessi in libertà ed è un'amnistia che è stata concessa dal presidente a tutte le detenute condannate per crimini violenti, ai minori e ai malati terminali, e sono stati liberati anche uomini che hanno scontato almeno un quarto della propria pena detentiva. Per continuare la disamina, in Nigeria c'è un'organizzazione della società civile che ha minacciato il governo di istituire un'azione legale collettiva se non si prenderanno delle misure per sfollare le carceri. E in Kenya invece i detenuti liberati sono stati circa 4.500. L'Uganda invece, che è il paese che detiene il record del numero delle carceri, nel paese ce ne sono, pensate, quasi 300, sono stati 833 i prigionieri graziati dal presidente Museveni. Record di rimessa in libertà invece per l'Egitto, anche se questa notizia fa un po' arrabbiare perché noi aspettiamo ancora la liberazione di Patrick, sono stati 4.000 detenuti rilasciati in occasione del Sinai Liberation Day lo scorso 25 aprile, ma ovviamente il problema delle carceri egiziane rimane grave perché c'è una massiccia presenza di prigionieri politici, quasi 60.000. Una situazione tutta particolare in Sudan, dove i sostenitori dell'ex dittatore Omar el-Bashir chiedono non solo la sua liberazione ma anche quella del suo entourage, ma il governo transitorio non ha approvato questa liberazione per timore di una fuga. E quindi, insomma, per concludere questa lunga carrellata, ecco Antonella, in Africa il Covid non ha fatto che peggiorare la situazione. Questo l'ha detto Ilaria Allegrotti, che è ricercatrice del Human Rights Watch per l'Africa, Ci sono tantissime persone ancora positive al Covid, si tratta di uomini, donne, ragazzini che prima rischiavano di essere dimenticati nelle galere d'Africa e ora rischiano la morte per Covid-19 proprio all'interno di quelle stesse galere. Ma ora, per rimanere in tema con l'Africa, una canzone, J'aime Africa di Ismael Lo, a tra pochissimo. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Afrika, mon lanyan. Mane jamu Afrika, moi sunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleure, luttons pour nos frères. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Per il nostro venerdì animalesco, Antonella, oggi i cavallucci marini. Sì, oggi ci facciamo un bel tuffo in mare per scoprire degli animali eccezionali, perché i cavallucci marini si distinguono dagli altri animali per un motivo molto, molto strano: sono i maschi a partorire. Le femmine infatti depongono le uova fecondate in una tasca addominale del maschio, dove poi avviene la schiusa. E da una nuova ricerca sul cavalluccio marino panciuto, così si chiama, ed è una tipologia che è l'Hippocampus abdominalis, è emerso che la tasca funziona come una placenta umana, fornendo agli embrioni tutto ciò di cui hanno bisogno, quindi dall'ossigeno ai nutrienti. E con l'avanzare della gestazione la parete della tasca si assottiglia. E poi subito dopo il parto la tasca riprende la sua forma originaria. È una cosa meravigliosa questa, mai sentita prima, ma in che periodo restano, fra virgolette, incinti i cavallucci marini? Allora, in realtà il periodo è compreso tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Si può osservare appunto questi cavallucci con un pancione turgido, spesso aggrappati con la coda a una cima o a una pietra sul fondo del mare. E in questo caso però è appunto il padre a occuparsi della gestazione del parto. E, diciamo, i cavallucci marini sono veramente l'unica eccezione del genere nel mondo animale. Nessun altro maschio partorisce, mettiamola così. La femmina, come vi dicevo, depone le uova in questa specie di incubatrice, che è il ventre del maschio, che è situato vicino all'apertura anale. Alla schiusa il maschio espelle gli avannotti con delle contrazioni addominali simili al parto femminile, che è un evento piuttosto insolito in natura e che è chiamato appunto gravidanza maschile. Assistere a uno di questi eventi è qualcosa di eccezionale. Nel giro di pochi secondi vengono alla luce decine e decine di piccoli cavallucci, ed è un evento molto diverso rispetto a qualunque cosa vista sui fondali. E questo lo racconta Roberta Eliodoro, che è archeologa e subacquea ed è proprietaria di un diving a Marina di Gioiosa Ionica a Reggio Calabria, e che da 15 anni monitora una colonia di cavallucci marini che è appunto sui fondali sabbiosi di quel luogo. È molto importante questo che dici, perché è un indizio, almeno, che in Italia ci sono sui suoli marini i cavallucci. Guarda, sui fondali esistono due tipi di cavallucci fondamentalmente in Italia: quello marino del muso corto, che vive tra le foglie di Poseidonia oceanica, e che tra l'altro la Poseidonia è veramente importantissima per i nostri mari perché li purifica, ma questo poi è un altro discorso, e il cavalluccio marino dal muso lungo, cavalluccio camuso, che vive tra alghe, mangrovi e coralli. Entrambe le specie vivono in una profondità non superiore ai 60 metri, spiega sempre Eliodoro, e dice che rispetto al passato se ne vedono di meno, ma gli avvistamenti proprio a Marina di Gioiosa sembrano essere maggiori rispetto ad altre aree d'Italia. Infatti, chi si immerge anche a 5-6 metri ha buone possibilità di avvistarne e non serve quindi scendere molto in profondità, e questo è molto, molto interessante. Il fondale di Marina di Gioiosa sprofonda poco lontano dalla riva fino a toccare i 400 metri di profondità, e quindi questo chiaramente favorisce la presenza dei microcrostacei, di cui poi i cavallucci marini sono golosi, il cosiddetto krill, che è consumato anche tra l'altro da balene, foche, pesci, pesci diversi, uccelli, e che rende l'ambiente marino particolarmente ricco di nutrienti. Quindi a questo punto abbiamo dati relativi alla loro presenza numerica. Veramente non particolarmente, perché non ci sono trend rispetto alla crescita e alla diminuzione, è molto difficile controllarne il numero, e non solo sono carenti da noi in Italia, ma sono carenti anche nel Mediterraneo, per cui si tratta di animali difficili da studiare, ma anche piuttosto vulnerabili, tant'è che pensa a volte si trovavano soprattutto in passato, è successo anche a me di trovarli spiaggiati, perché loro non riescono a tornare indietro se l'onda li spinge sulla spiaggia. In ogni caso, insomma, sono animali che risentono molto anche del cambiamento climatico e della pesca a strascico e dell'inquinamento, appunto. Per restare in tema, ascoltiamo una canzone bellissima di Lucio Dalla, che canta in questo caso con Francesco De Gregori, che si chiama Com'è profondo il mare. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte. Per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere. Poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Sono in mezzo al mare, come profondo il mare. E poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello specchio di terra che il suo povero cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, e fu scaraventato in un palazzo o in un fosso, non ricordo bene. E poi una storia di catene, catene bastonate e chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, profondo mare. Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Bentornati sempre su Liberi Dentro Doradio TV. E concludiamo il percorso con Silvia Giralucci. In questi giorni lo abbiamo ascoltata, ci ha presentato il podcast su Pianosa, che lo potete ascoltare in versione Audible ed è andato in onda su Radio 24. E dal carcere di alta sicurezza a carcere con un regime speciale, Pianosa si è trasformata nel corso di questi anni. Quindi il regime detentivo è molto cambiato. Cosa mi dici di questo isolamento sull'isola? Allora, Pianosa nel 1998 viene chiuso il carcere, per alcuni anni rimane deserta, entra a far parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e poi alcuni anni fa, con una convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, alcuni detenuti in articolo 21 del carcere di Porto Azzurro possono trascorrere la loro detenzione a Pianosa. Una parte rimane in una sezione che è una sezione, l'ex Embolello, dove venne detenuto Pertini, che però non ha nemmeno i blindi, le porte sono delle normali porte, si fanno da mangiare e rimangono lì a vivere tutto l'anno, coltivando gli orti e facendo dei lavori di manutenzione sull'isola, e una parte viene un po', come dire, rafforzata d'estate, quando c'è un albergo con 12 stanze e un ristorante per i turisti che giornalmente si recano nell'isola, come dire, a fare questi servizi alberghieri e ristorativi. Quindi ci sono 4 agenti e uno sparuto gruppo di detenuti che godono di un regime particolare, perché a Pianosa è persino possibile avere un telefonino e fare le videochiamate ai propri familiari. E mi ha colpito quando uno di questi detenuti mi ha raccontato: tu non puoi immaginare che emozione grande è stato, straniero, rivedere mia madre dopo tanti anni. E quando ho parlato con lei per mezz'ora, mentre le telefonate normalmente durano 10 minuti, mia madre mi ha chiesto: ma dimmi la verità, figlio mio, sei scappato? Perché per lei poter parlare per mezz'ora intera con suo figlio era la libertà. Ecco, questa possibilità di mantenere un legame anche solo telefonico, videotelefonico con i propri cari, è qualcosa, l'importanza di questa cosa, che chi non l'ha subita, chi non ha un parente all'interno del carcere, non si può nemmeno immaginare, perché tra la libertà fisica di poter girare un'isola e la libertà di poter parlare con qualcuno, loro definiscono come la più grande libertà questo di poter avere un rapporto con i propri cari, che è importantissimo. Assolutamente, e questa cosa mi fa un po' sorridere amaramente, perché il permesso di fare telefonate e videochiamate nelle carceri, nel resto delle carceri che non sono magari Pianosa, è stato possibile dal Covid in poi, quindi questa cosa fa molto riflettere, questo regime detentivo speciale. E per il resto Pianosa è un'isola meravigliosa, come dicevi tu, in un parco naturale preservato da tutto, e c'è anche un piccolo paesino con pochi abitanti. Anche per loro vale in qualche modo questo regime di detenzione, potremmo dire. E come hai vissuto tu questo isolamento sull'isola? Allora, il paesino con i pochi abitanti c'era quando c'era la colonia penale agricola. Adesso in realtà gli unici abitanti sono i 4 agenti, gli unici abitanti dell'isola. Poi ci sono alcune case a disposizione dell'amministrazione penitenziaria in cui gli agenti possono andare in vacanza d'estate. C'è l'ex ufficio postale, che è stato ristrutturato dall'Associazione per la difesa dell'isola di Pianosa, in cui i soci si alternano per tenere vivo questo luogo, che è un museo con la memoria dell'isola. E poi ci sono un albergo e un ristorante in gestione alla cooperativa Arnera, che però sono aperti d'estate. Per il resto e con le persone che ci lavorano. La presenza fissa tutto l'anno è solo quella degli agenti e dei detenuti in articolo 21. D'estate ci sono pochi turisti che riescono ad andare in queste 12 stanze, per il resto ci sono delle gite giornaliere in cui alle 11 della mattina arriva la nave, scarica queste 300 persone in spiaggia, rimangono lì fino alle 5 e poi se ne ripartono. Quindi le persone però non possono liberamente girare nell'isola, possono solo stare nel paesino dove le case abbandonate di anno in anno si sgretolano, quindi c'è anche un patrimonio architettonico meraviglioso che va perduto, perché nessuno si interessa, l'ente parco si occupa della parte naturalistica, mentre della parte architettonica non si occupa nessuno. Se è un inferno o se è un paradiso, sicuramente per tante persone che ci sono state, Pianosa è stato un inferno. E io ho scelto questo nome, l'Isola del Diavolo, perché era il nome con cui è stata conosciuta e appellata da molti nei secoli, e anche perché Murana mi dice che gli agenti che lo tenevano sequestrato non erano uomini ma diavoli. Nello stesso tempo però per tutto il podcast rifletto se non sia un inferno piuttosto un paradiso. Devo dire che dopo che è uscito il mio podcast, in tanti abitanti di Pianosa nel corso dei decenni si sono un po' arrabbiati per questo appellativo, dicendo che è ora di smetterla di chiamare Pianosa l'isola del diavolo, perché almeno per quel che mi riguarda, stare in quell'isola, in quel posto sospeso, senza rumori, con una pace infinita, con un mare trasparente che non si può nemmeno immaginare, con gli uccelli, con questo patrimonio architettonico, per me quella settimana, nonostante abbia avuto una gastroenterite, sia caduta dal letto, me ne siano successe di tutte, è stato un vero paradiso. E questa cosa la racconta, secondo me, molto bene Anna Maria Funghi, che era la responsabile l'anno scorso, quando dice: tornare in città per me è difficilissimo, le luci dei supermercati, i rumori. Pianosa ti porta ad ascoltare l'essenziale, ad ascoltare il rumore del vento, tutte quelle cose di cui in questa vita frenetica nelle città, che questa vita frenetica ci ha fatto perdere, non riusciamo più ad accorgerci delle piccole cose della natura che poi è ciò che ci fa forse rimanere in armonia con noi stessi. Tu dici anche che c'è il rischio che però sia una bolla questo isolamento, soprattutto per le persone in regime di semilibertà in articolo 21, il fatto di godere di questi privilegi, diciamo, rispetto ad altre carceri, però di stare su un'isola, poi dopo magari il reinserimento sociale non è così favorevole. Ma questo non direi, perché in realtà d'estate ci sono i turisti e quindi quello che mi raccontano anche loro è la possibilità di entrare in contatto con i turisti, questo scambio nei mesi estivi avviene. Quello che dico è che un'esperienza come questa meriterebbe di essere molto più diffusa, che ci sono diversi progetti anche per dare una continuità abitativa a Pianosa, ridare vita agli uliveti che ci sono, curandoli, estendere la parte dell'agricoltura, cioè nel contempo salvare quest'isola e consentire a un numero molto più elevato di quello che non è oggi di detenuti di fare un'esperienza, di dare un senso alla loro pena. Chiarissimo, quindi forse un modello Pianosa potrebbe essere, anche per dare giustizia allora a questi abitanti di Pianosa che si sono lamentati per la nomenclatura, appellativo, invece per dire che è un esempio molto positivo e forse magari una riforma della giustizia che tenga conto anche di applicare modelli, di dare un senso della pena diverso a quello che non sia soltanto punitivo e com'è attualmente. Ecco, secondo me una cosa su cui bisognerebbe riflettere è che le pene alternative sono pene, non sono alternative, sono una modalità diversa di scontare una pena e che sono necessarie per il reinserimento sociale successivo alla fine della pena. Non è che uno che sta in articolo 21 è stato messo fuori, sta facendo un percorso di pena per reinserirsi. Silvia, io ti ringrazio, invito ancora una volta i nostri ascoltatori a scriverci, redazioneliveridentro@gmail.com, e naturalmente tutto ciò che sarà rivolto e destinato a te te lo invieremo e sarà tua premura se vuoi risponderci. A presto e grazie. Grazie a voi per questo spazio. Ti aprevo a processione, terzinha do Terezão, e da minha FG do Dial, cabelinho da Lou, cabelinho da Lou. Estou luchado em que cheio de tetim, que vamos chato em que te pedi. Mama, mama, dame palã, que vejo na casinha, vejo na casinha. Te sabem pra quem tá se te, tia te fuge que tá andere, que te janquelo que no pé ande, deseja sabo de linha. Chamberlin, su Sabelin, a fuge peixe de chacanus, em cainhão, se de caçamã, em ponte gelo, demonstra no gelo. à Chamberlain, sur Saint-Berlin, à fouger pêcher les chars à rouge, et gagnant pour se mettre sa main, et protéger le démonstrant le jeu. Porto cuga, vede l'onte, quelle sciappa riposo dolore, per non fa bene pure contento, ma ne ho finanziamento. Se confondi ta confusione, con le giopinte indignazione, e uga cria del re, paga se sei a guerra, ste. E ticchetti che sbraggia prevo, manco c'è naso che vei de nevo, ritu calisci nel porto de Cristo, tutta è l'unico che se n'ha visto, in mezzo a quelle creature. Se guagnano panda nue, aghe, aghe, aghe, aghe, aghe, aghe, te moce. A Chamberlain, si sa de lì, a fuge cresce de sciacano, e cagnano se le terza mano, e punte gelo che non tra lo gelo. A Chamberlain, si sa de lì, a fuge cresce de sciacano, e cagnano se le terza mano, e punte gelo che non tra lo gelo. Rieccoci, ci salutiamo anche oggi e vi ridiamo appuntamento con le rubriche tra pochissimo, se ci ascoltate su Lepida TV alle ore 13.30 oppure alle 17 su Teletricolore e come di consueto alle 6.30 del mattino su Radio Città Fujiko, la rubrica Islam, religione e civiltà sull'emozione della rabbia. Poi abbiamo la ginnastica da camera subito a seguire. E per il sabato abbiamo le parole chiave con l'arcivescovo Zuppi. Vi ricordo di scriverci se avete delle domande a proposito e Zuppi risponderà. Poi Just Mercy, nella quale Anval Ghulam, medico ricercatrice, parla del trauma e della resilienza. E poi a seguire la rubrica Parliamo di buddismo con l'intervista alla monaca Tashi, dove si parla della sofferenza. A seguire ancora Fare Università in Carcere con Alessandra Giovagnoli, che intervista la professoressa Susanna Vezzadini dell'Università di Bologna. E ovviamente la domenica scoppiettante con Chef al fornelletto di Fomal per preparare il tiramisù e poi a seguire il Teatro dell'Argine che presenta Incursioni teatrali. Ovviamente è una puntata in replica, ma è sempre bellissima da rivedere e riascoltare. Grazie a tutti, redazione liberidentro@gmail.com per scriverci e ovviamente un grande saluto e un arrivederci a lunedì prossimo da me che sono Caterina, da Antonella Cortese e da Enea Flacco. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.